Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ma buongiorno, buona domenica, che meraviglia, come va? Benissimo, grazie. Io e te ci vediamo poco ultimamente, da quest'estate siamo talmente pieni di impegni che forse ci vediamo qui in radio alla fine. Allora, intanto volevo ringraziare tutti quelli che ci scrivono e scusarmi se rispondiamo in ritardo, ma piano piano, come potete vedere, vi rispondiamo. Continuate a scriverci a Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Le settimane scorse abbiamo trovato questo articolo interessantissimo su Focus.it, che dice le 11 cose che forse fai ma che ai cani non piacciono, perché noi facciamo un sacco di cose che pensiamo che ai cani piacciono. Allora, il primo punto di cui abbiamo questo è importante, sai, perché noi diciamo il mondo dalla prospettiva del cane, cioè noi non ci chiediamo mai se al cane effettivamente piace quello che gli stiamo facendo. Infatti. Cioè diamo per scontato che una carezza, tanto siccome è una carezza, la devi gradire per forza, ma se noi la guardiamo dal nostro punto di vista, tutti quelli che incontriamo possono farci una carezza perché la carezza a noi è bella. Personalmente, guarda, sai, personalmente, quando da piccolina mi davano i buffetti sulle guance, li odiavo, scappavo, ero proprio odiosa. O ti scompigliano i capelli. Esatto, quindi vale la stessa cosa per i cani. Vale la stessa cosa per il cane, uno deve avere degli strumenti per capire se quel cane in quel momento gradisce o no. Allora, il primo punto che abbiamo già discusso è stato usare le parole più che il linguaggio del corpo, quindi come abbiamo detto e spiegato, il cane riconosce molto di più il linguaggio del corpo che le parole che esattamente diciamo. Esattamente, il cane è attento a quello che noi facciamo più che a quello che noi diciamo. Il secondo punto è abbracciarlo forte. Esatto, perché assolutamente bene. I cani tra di loro non si abbracciano, più che altro tendono a tollerare i nostri abbracci, quindi dobbiamo stare molto attenti. Io infatti, più che altro farci dormire addosso è meglio, se vogliamo l'abbraccio, però andare lì al cane e abbracciarcelo è una cosa se uno inizia a osservarlo il cane lo capisce che c'ha l'occhio spalla a palla, poveraccio. Poi tra l'altro stiamo tracciando anche dei paralleli in umana, no, su questa cosa qua, quindi sì. Stessa cosa per gli esseri umani, vale molto di più il linguaggio del corpo, il tono della voce piuttosto che quello che dici. Immagina che la maggior parte dei litigi nascono non per quello che dici ma per come lo dici, per il tono di voce, che è uguale anche fra le persone. Esatto, è quello che succede, cioè è uguale anche per le persone. Anche le persone sono più attente al tono di voce. Ecco perché a volte uno manda un sms che pensa di dirlo in modo scherzoso, invece quell'altro leggendolo lo legge con un tono diverso e nascono dei grandi casini. Perché tu all'sms dai un tono nella tua testa quando lo leggi, no? E allora per darlo un po' meglio bisogna mettere un po' di smiley, cuoricini, fuochi d'artificio. Sì. Beh, insomma, se è una cosa. La cosa migliore, carina. Come cos'è che dicevi tu, mi hai fatto leggere una vignetta che uno dice: sì, ma ti sono di fronte, no? Cioè, ti contatto su Facebook, su Instagram, su Twitter, no, sì, però ti sono di fronte adesso. Se vuoi ti sono di fronte, se non ce l'ho su Instagram, non ce l'ho su Twitter, non ce l'ho, però se vuoi ti sono di fronte. No. Sì, esatto. Stessa cosa. Allora, stessa cosa per gli abbracci, perché non sempre gli abbracci sono graditi. Adesso andiamo sul fargli pat pat sulla testa. Esatto. Il terzo punto è fargli pat pat sulla testa, non gli piace. Come non piacerebbe a te se fanno pat pat sulla testa, ti piace? Esattamente. Provate a farlo a un bambino di 3 anni anche pat pat sulla testa. No, ma è molto importante, perché poi sai che molti genitori vengono imitati dai bambini, no? Quindi sì. Se un bambino continua a vedere i genitori che accarezzano i cani accarezzandoli sulla testa, il bambino lo ripeterà. Ma difatti quando uno tenta di farlo, soprattutto un estraneo, quando ti incontra per strada o amici vengono a casa, li vedi che loro abbassano la testa, la scansano, cioè è abbastanza visibile. Questo perché è piuttosto delicato. Per i cani è uno spazio strettamente personale con la testa, come lo è per noi la faccia, per esempio. Esatto, ma per il cane tra l'altro ti dirò di più, è importante questa cosa del contatto dalla testa al collo, tantissimo al dorso, alla collottola, a tutta la schiena, perché i cani tra di loro quando vogliono inibirsi o strutturare lo status sociale si mettono in questa posizione a T, che è quasi un preludio alla monta, la monta gerarchica, in cui mettono il muso sulla schiena, sul collo dell'altro cane, per capire se l'altro cane lo accetta oppure no. Ah, vedi. Quindi è qualcosa che dice l'altro cane, non ti voglio bene o sono affettuoso in questo momento, ma ha un significato diverso. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando noi ci approcciamo ad un cane come lo vogliamo accarezzare. Perché dicevamo prima, bambino genitore, se il bambino ti vede accarezzare sempre la testa e il dorso del cane, lo fa anche lui, un cane potrebbe tollerare te, ma non il bambino, e quindi magari dargli un morsetto. Certo. Sai che i cani sono alla stessa altezza della faccia dei bambini, sì. No? Quindi un morsetto potrebbe. Poi, ovviamente, questo vale per tutti gli animali, soprattutto per tutti i cani, e poi ci sono delle eccezioni, magari di qualche razza, piuttosto che dell'indole stesso dell'animale. Io ma vorrei certo. ricordare, perché io non lo sapevo, io che ho un chihuahua, l'ho scoperto col chihuahua e molti di quelli che hanno il chihuahua non lo sanno, per esempio il chihuahua ha la scatola cranica con la fontanella praticamente sempre aperta, cioè raramente la testa e il cranio di un chihuahua si chiude, quindi maggior ragione il chihuahua, uno li vede piccolini, gli sta sempre a rompere le balle, più sono piccoli i cani più dicono no ma tanto è così carino, piccino, io dico morde, ma io sono abituata a quei cani, lo toccano e giustamente Morfin li morde. Capisci? Neanche l'avessi addestrato io, proprio, è proprio bravo di suo. Quindi a proposito di razze è anche comprensibile, perché sai che per esempio le razze da pet therapy sono, che si coinvolgono in pet therapy, sono generalmente i Labrador, i Retriever, sono dei cani ibernesi a volte, perché sono dei cani che tollerano, sono curiosi, hanno molta pazienza, però così potrebbe non essere per un pastore tedesco, per esempio, per un border collie, per un metic, e quindi dobbiamo stare attenti, anche la razza fa la differenza. Comunque, come sempre, l'importante è osservare. Se io già mi avvicino al cane senza neanche toccarlo e quel cane fa un passo indietro e voglio instaurare con lui amicizia, non devo convincerlo a suon di tono di voce eccetera, devo fare anch'io un passo indietro e aspettare, ricalcare i suoi tempi, sarà lui ad avvicinarsi a noi. Bene, fantastico, vedi quante cose si imparano. Io di fatto osservando i cani e sentendoti parlare anche quando fai la scuola, le classi lì a Think Dog, ho imparato un sacco di cose, perché prima non le vedevo, anche se non sto a osservarle, adesso a volte le vedo perché te le sento raccontare, quindi... Ma allora facciamo una cosa, tracciamo un parallelo, in questo minuto che ci rimane, tracciamo un parallelo con gli esseri umani, cioè alla luce di tutto questo è molto importante che la gente sappia che tra esseri umani il contatto fisico, il tocco, l'abbraccio va calibrato a seconda di quello che senti e che vedi nell'altro. Certo, però già fra esseri umani non ci si capisce, caro il mio Vaira. Appunto per questo stiamo dicendo, allora lo spazio di relazione che si apre con un cane diventa una scuola, una palestra per essere bravi anche con le persone, perché anche le persone vanno osservate, proprio per questo, proprio perché tra persone anche non ci si capisce. Allora, tra fidanzati, volete che il tocco sia percepito come qualcosa di gradevole, l'abbraccio che sia percepito come qualcosa di gradevole, la carezza pure, dovete identificare il momento giusto, lo stato giusto. Se una persona è nervosa non vale la pena andare lì troppo a toccarla. Come sempre ci vuole, bisogna fare le cose nel momento giusto e nel posto giusto. Esatto, e questo ti dice se è il momento giusto proprio il tuo partner o la persona a cui vuoi bene. Bene, con questa pillola di saggezza del dottor Vaira, noi ci ascoltiamo un po' il traffico e ci rivediamo subito dopo. A dopo! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Felice? Sei felice? Moltissimo, parecchio. Insomma, stamattina ho delle vertigini che non so, non si capisce. Gira tutto, tu giri, ogni tanto mi passi davanti, poi sparisci, poi mi ripassi davanti, poi sparisci. No, ma guarda, lo sto facendo davvero, non è una tua impressione. Certo, fantastico. No, dicevo, visto che noi leggiamo le mail, a differenza di quello che può pensare qualcuno, in ritardo arriviamo. Un nostro affezionato ci ha chiesto di parlare di una razza che nemmeno io conoscevo, poi nel momento in cui tu mi hai fatto vedere le foto l'ho riconosciuta. Ma di cui si parla veramente poco. Cagnone, questo enorme, che sembra un orso. Pastore del Caucaso. E vale davvero la pena parlarne perché è un cane molto affascinante. Insieme a lui c'è anche l'Asia centrale, insomma sono due cani molto simili tra di loro, la zona è sempre quella. Però invece di parlarne io abbiamo in linea Francesco Spiaggia, che è un allevatore di Asia centrale e che ci parla un po' delle differenze tra i due, e quindi conoscerà sicuramente conosce bene gli usi e i costumi di questi cani, vero? Di questo genere di cani. Buongiorno. Pronto? A tutti. Ciao Francesco. Sono io. Ciao Francesco. Benvenuto. Niente. Allora, tu sei fresco di cucciolata, ci risulta? Sì. Sono nati dei cuccioli il 3 di gennaio. Quanti sono? Allora sono capricorno? Sono tutti capricorno, sì. I nostri cani sono tutti capricorno. Ecco, perché sono tutti... In che senso? Che li fate tutti nascere a gennaio, fra dicembre? Nascono tutti a gennaio, perché siccome sono parecchio selvatici e le femmine vanno in estro, cioè fanno un calore all'anno come lupi, questo calore deve essere per forza verso la fine dell'autunno, la femmina gestisce poi la cucciolata durante l'inverno, nel cuore dell'inverno, nella tana, e poi i cuccioli quando avranno 3-4 mesi sono pronti per uscire dalla tana vedi. A primavera. Ma scusa, però la domanda è come fate a far sì che la femmina ci abbia il calore proprio in quel periodo? Noi non facciamo assolutamente niente, è la natura che è così. Ah, ma dai. Sì. Devono per forza, per sopravvivenza. No, vedi, perché fantastico. Poi quando, sai cosa stava dicendo lui? Quando hanno 3-4 mesi è la primavera praticamente, certo. No? Primavera, esatto. Estate. Quindi vengono fuori dalla tana proprio nel momento ideale per poter prendere confidenza col mondo. Ma vedi, devono questa cosa è fantastica. A cacciare, per esempio, devono poter seguire i pastori quando incominciano a fare le transumanze. Scusate se vi interrompo. Scusa, devono imparare a cacciare? Sì, sì, sembrerà incredibile, ma i cani di questo tipo spessissimo devono sapersi procurare il cibo da soli. Ma va, cioè non sono i pastori a dare loro cibo? Non sono, sì, i pastori ogni tanto li aiutano e gli danno del cibo. Questo come è ogni certo. Tanto? Però vedi, Rosita, senta che Rosita è costernata, come ogni tanto, come ogni tanto. Cos'è random? Vabbè, ciao, va, oggi vado ma da mangiare. Devi capire che, allora, esatto. Dobbiamo descrivere qual è la situazione lì, cioè non è che siamo a Milano centro. Non siamo di certo al parco di Milano, è ovvio, infatti questi sono cani esclusivamente da lavoro. Io parlo in particolare dell'Asia centrale perché ho esperienza con i cani del Tagikistan, però in realtà sia il Caucaso che l'Asia centrale sono delle razze cugine, quindi è un po' come dire setter Gordon piuttosto che setter irlandese, sì. Insomma sono cani che sono piuttosto vicini. Niente, ma allora, questi, sì. Allora ti dico, per me è importante che ne parliamo sì, ok, la dimensione eccetera, però soprattutto del loro carattere, della loro predisposizione, certo. Io dico sempre una cosa alle persone, piuttosto che andarvi a leggere sui libri cosa c'è scritto sui cani, che va bene perché uno si fa un po' di cultura, però dovete chiedervi soprattutto qual è la situazione d'origine di questa razza, cioè perché è venuta fuori, quali sono le sue funzioni. Questo vi aiuta a capire se lo stile di vita che voi avete è consono o meno al tipo di cane, perché sai quando se libri si legge tante volte, certo. Tutti i cani sono bravi con i bambini e tutte queste robe, certo, qua. E invece certo. Bisogna capire bene che cosa fanno questi cani, tipo il border collie se mi fa oltre 10 ore al giorno di conduzione al gregge con migliaia di capi, ovvio che poi se me lo metto in casa a Milano, certo. mi dà problemi. E allora qual è la situazione di nascita, di origine di questi cani? È una situazione che va a perdersi nel tempo, perché questi sono cani che hanno un'origine antichissima, sono il cane, se proprio vogliamo dirla in parole molto semplici. Si parla così di molte razze, ma qui la cosa è ancora attuale, perché ancora oggi questi cani vengono utilizzati in posti remoti, quindi difficili anche da raggiungere, dove ci sono ancora i grossi predatori come i lupi, gli orsi, eccetera. E questi cani in particolare sono abbastanza primitivi, sono sì. Abbastanza originari, quindi anche nel loro carattere non sono cani facilissimi da gestire. Quindi noi abbiamo il pastore con il gregge e questi cani attorno il nulla, perché immagino che la prima... Spazi molto vasti, sì. Quanto vasti? Cioè tipo la prima abitazione la si potrebbe trovare, il primo centro urbano si potrebbe trovare a quanti Guarda, chilometri? Ogni pastore solo dove ha il suo ovile, nello spazio invernale, quindi praterie, ha a disposizione circa 50-80 ettari. Quindi e in questi posti ci sono parecchi pastori. Io parlo di una regione nel Tagikistan nella quale sono stato recentemente. Poi in più, quando questo pascolo attraverso la calura estiva incomincia a dare meno foraggio, tutti gli animali, quindi ovini, greggi, cavalli, asini, pastori, si spostano verso gli alpeggi, perché in alto fa più fresco e quindi in alto il foraggio rimane verde più a lungo e loro certo. Continuano. No? Poi tornano per l'inverno, perché altrimenti farebbe troppo freddo, tornano a valle, in queste valli che sono molto spaziose. Quindi, diciamo, importantissime. Quindi diciamo che questa faccetta da orso tutto peloso, coccolone, tipo peluche, non si addice per nulla alla maggior parte delle persone che vivono in Italia, che magari hanno solo un appartamento o una villetta con un piccolo giardino. Sì, in appartamento assolutamente no. Io un cane così non lo terrei. Devo anche dire che spesso anche la villetta col giardino è un po' poco. Infatti. Bisogna, come minimo, bisognerebbe parlare di zone rurali, di posti di campagna. Certo. Ma in Italia ce ne sono tanti? In Italia, per esempio, dove abito io, ci sono le riserve, ci sono i posti agricoli, ci sono i maneggi dove hanno i cavalli e spesso intorno hanno tanto spazio. Però, certo, non è in Italia questo cane è un po' fuori scala, diciamola tutta. Okay. Io parlo in particolare però dei cani che ancora adesso lavorano nel paese d'origine e che vengono classificati come gli aborigeni o i nativi. Sì. Quindi già se si parla del Caucaso con la testa da orsacchiotto, che poi è un orsone, quello è già un cane più, tra virgolette, selezionato per poter stare insieme alla nostra società. Tant'è vero che sono cani che sono stati poi presi dai russi, sono stati allevati, sono stati anche un po' cambiati. Però, mentre il cane che viene da quelle terre lì ovviamente ha altri bisogni, necessità, caratteristiche, tendenze, no? Ma ora tutti i cuccioli che hai tu dove andranno? Tutti i cuccioli che ho io andranno in particolare nelle campagne. Si spera di riuscire a dare sempre a qualche pastore, perché questi cani in teoria fanno una cosa molto importante. Potrebbero essere degli ottimi dissuasori per quanto riguarda le predazioni dei lupi anche in Italia, anche nelle nostre zone rurali. Questo cosa vuol dire? Che se il cane riesce a scoraggiare il lupo va via e non attacca al gregge, il pastore non è costretto a prendere il fucile e a sparare al lupo. Quindi, tra virgolette, questi cani qui dovrebbero aiutare nella salvaguardia di capre e cavoli, se mi consentite questo paragone, cioè lupi e pecore, e quindi potrebbero essere molto utili. Si stanno studiando dei sistemi per poter fare sì che però poi questi cani, siccome in Italia gli spazi sono ridotti, non vadano a dar fastidio per esempio agli escursionisti, piuttosto che ai cani del vicino che magari si trovano in zona. Senti, e con gli altri cani come sono? Ecco. Con gli altri cani sono piuttosto dominanti. Ecco, questi sono cani per esperti, nel senso non sono cani da compagnia. Certo. Sono in realtà dei cani, a mio parere, ma penso anche a detta di altri, sono questi qui in realtà degli attrezzi da lavoro veri e propri. Quindi, insomma, non è che se non hai mai avuto un cane, non incominciare con da questo qua. Ecco, vedi, queste sono le informazioni importanti per chi ci sta ascoltando, perché quando tu sfogli una rivista, no, e vedi questi splendidi cani che sono imponenti, sono molto affascinanti, certo, uno dice quasi quasi me ne prendo uno. Ecco, ripensaci. Contatta Francesco Spiaggia che ti fa uno screening per capire se sei il proprietario adatto. Perché allora voglio dire una cosa: io sono stato contattato a volte da persone alle prese, in particolare col Caucaso, che era un po' più diffuso, allora lievemente più diffuso, e normalmente mi dicevano: non so che fare, il mio cane mi ringhia, mi guarda male, ecco, e a volte cerca di mordermi. Ora, siccome non si tratta di un pincher, ma si tratta di un cane così pesante, allora insomma è per questo che io volevo farti fare questa testimonianza. Insomma, non sono cani non che sono tu giocattoli, non sono no, giocattoli. Perché ecco, poi il pastore, nello specifico, scusa se ti interrompo, ma se il cane ringhia, morsica o si gira, prende un bastone di 2 metri e gli fa capire chi comanda. Ma questo il pastore lo fa fin da quando il cane ha 3 mesi di vita, quindi il cane cresce con questa idea. Dice: ok, questo qua lo devo lasciare stare. Da noi non facciamo questo tipo di vita, quindi da noi è importantissimo, secondo me, almeno per la mia esperienza, bleffare. Proprio tu a questi cani devi fargli costantemente credere che tu sei il più forte. Così che loro, bene o male, insomma, in qualche modo evitano, prima di tutto ti seguono, imparano, diventano anche molto dolci, ma evitano anche di ringhiarti, di fare queste cose, perché il caratterino loro ce l'hanno, loro non hanno paura. Quindi se tu vai a sgridarli senza un motivo preciso, e soprattutto sei lì e ti presenti al loro livello, loro ti dicono: aspetta, parliamone un attimo, perché forse non ci siamo spiegati abbastanza bene. Senti, abbiamo un solo minuto, differenza così al volo tra Asia centrale e Caucaso? Ma secondo me pochissima, perché in realtà c'è più differenza tra Caucaso e Caucaso, spesso se parliamo di Caucaso selezionato e Caucaso aborigeno, che tra Asia e Caucaso originari del posto in cui vivono. Forse il Caucaso è leggermente più civilizzato, ma però è anche più nevrile. Okay. L'Asia centrale è un po' più asiatico, quindi è un pochino più, se così si può dire, riservato, un po' come gli asiatici. Differenza di peso ce n'è? Differenza di peso, ecco, sfatiamo un mito: questi cani non devono essere giganteschi, ma quando un buon cane da lavoro arriva a 50 kg è già tanto, sono già cani belli grossi, devono essere cani molto dinamici. Senti Francesco, per trovarti, Francesco Spiaggia su Google è sufficiente? trovate anche come allevamento amatoriale tagico. tagico.com, perché i cani del Tagikistan. Benissimo. Grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie a voi. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, ci vediamo tra poco. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oggi... Signore e signori, abbiamo con noi... Beh, vedi, io e Rosita ridiamo su questa cosa qui perché ogni volta abbiamo degli ospiti importanti, in questo caso è un ospite importante. Molto felice di poter fare questa chiacchierata e di presentarvi... Silvana Armani, nipote del nostro Giorgio, Giorgione nazionale che fa i capi d'abbigliamento secondo alcuni e secondo Rosita i più belli del mondo. Sì, secondo molti, più belli del mondo. Silvana, come stai? Ciao, ciao, buongiorno a tutti e due. Molto bene, grazie. Quindi perché abbiamo invitato Silvana a partecipare alla nostra trasmissione? Perché lei si occupa tanto e tanto bene di cani e si occupa tanto bene della moda in modo etico, stiamo scoprendo. Quindi insomma, l'idea di Rosetta a me è piaciuta molto. Sì, difatti anche a me fa molto piacere perché Silvana è molto e tanto sensibile appunto ai bisogni, alle emozioni, alla vita dei cani in questo modo specifico. Non riesco più a parlare oggi, Silvana, perdonami, ma mi gira un po' la testa. c'ho un'età e c'ho la cervicale che incombe. E ti dicevamo prima, tu hai fondato questa nuova Onlus, giusto? Sì, giusto, che si chiama Squadra Quattro Zampe. Squadra Quattro Zampe, Onlus. Con chi l'hai fondata intanto? Allora, l'ho fondata insieme a Gilda Moratti e a altre due persone che poi si sono tolte. Ed è una Onlus che ci permette di salvare tantissimi cani randagi, ci permette di sistemarli, curarli, metterli tutti a posto e poi darli in affido facendo dei preaffidi molto seri. Abbiamo un presidente, Andrea Loverde, che è una persona molto in gamba, per cui non siamo quelli che danno i cani così, ma siamo quelli che li danno dopo aver fatto vari preaffidi, andando poi a fare i controlli e tutto. Benissimo. Quanto. Fantastico. E sono molto orgogliosa di dire che quest'anno ne abbiamo salvati 150. Brava. Benissimo. No, poi io ne approfitto. Allora, apro e chiudo questa parentesi importante per chi ci sta ascoltando. Quando uno decide di avere un cane, si tratta di un'adozione in piena regola. Allora, associazioni come Squadra Quattro Zampe favoriscono quella che noi in gergo chiamiamo adozione consapevole, perché non c'è nulla di peggio di trovarsi davanti a un proprietario che ti dice mi aspettavo altro. Esatto. Da parte del cane, cioè è troppo esuberante, il cane è sporco. Sì, il cane è sporco. Perché te lo rendono come se fosse un peluche. Esatto. Sì, esatto. E invece ci devi passare una vita, con questo cane sei responsabile di una vita, allora è meglio rivolgersi ad associazioni che questa cosa qui la agevolino. Quindi grazie per questa roba qua. Quindi dicevi 150 cani? Sì, 150 cani anche quest'anno, ormai sono quasi 5 anni che abbiamo aperto questa Onlus. E devo dire che non c'è sosta, nel senso che riusciamo sempre a far adottare questi cani e proprio ieri siamo riusciti a far adottare anche questo ultimo pitbull che avevamo preso, perché poi sai, di fatto c'è anche da vedere la gente quando viene a scegliere un cane. Io non potrei mai fare il lavoro che fa il nostro presidente, perché si trova davanti a delle situazioni allucinanti, gente che viene, chiede il cane e poi glielo rende, oppure ma il cane fa la pipì in casa. E certo, signora, che fa la pipì in casa, dove la deve fare, un cucciolo, è normale. Sì. Purtroppo ti trovi a che fare anche con molta gente ignorante. No, una volta mi ricordo ero stato ad un canile, mi avevano chiamato, no, perché volevano una consulenza. Mi ricordo è arrivato un papà con il figlio in macchina, il figlio avrà avuto 6 o 7 anni, no? E ha riportato un cagnolino piccolo, carinissimo, preso 15 giorni prima, ha detto: guarda, mi dispiace, ma c'è mia moglie che proprio non ne vuole sapere, purtroppo ha fatto la pipì in casa, lascia qualche pelo e devo riportarlo. Cioè tu quindi immagina che esempio loro danno ai bambini, cioè gli esseri viventi si possono utilizzare e usare come oggetti, lo prendi, non ti va più. Senti, ma da quando nasce questa tua passione e attenzione per i cani? Ma guarda, io diciamo che ho sempre avuto animali fin da quando ero bambina. Mio padre era uno che portava a casa anche la lucertola che trovava con la coda spezzata. Esatto. Abbiamo sempre avuto animali in casa. Poi da quando ovviamente sono diventata grande, sono andata a vivere da sola, ho cominciato a avere i miei cani e io ho sempre avuto cani. Vedi, questo cioè sono assolutamente dipendente. Te lo chiedo perché lo chiedono spesso anche a me. In comune abbiamo il fatto che parte tutto anche da un'educazione, no? da un genitore sensibile, perché io mi ricordo quando ero piccola che se i primi lombrichi o le lucertole, queste cose qui, no, non gli spezzare la coda perché poverino sente male, perché quindi sai, l'educazione fa tanto. Assolutamente, guarda, ne parlavo proprio ieri, non mi ricordo con chi. Se c'è una cosa che mi fa incazzare, si può dire? Assolutamente sì, ho detto di peggio. Ok, mi fa incazzare quando vedi per strada, magari sono in giro col mio cane e vedi passare una signora col bambino e quando ti incontra tira via il bambino come dire non toccarlo. Cioè sono i genitori che terrorizzano i figli. Sì. Perché un bambino non è possibile che non abbia attrazione per un animale, esatto. È impossibile. Te lo confermo, ci sono degli studi anche su questo. Assolutamente, per cui quando vedi la mamma che lo tira via, come dire, non toccare il cane, è chiaro che poi questo qua quando diventa grande diventa terrorizzato dai cani, pauroso. Sì, infatti. C'è tutto un lavoro a monte da fare. Pensa che il debole sistema immunitario dei bambini oggi è causato proprio dall'iperprotezione dei bambini, dei germi, queste cose qua. Il sistema immunitario invece ha necessità di mettersi a contatto con ciò che non va bene, altrimenti guarda, poi... io credo che noi avremo un sistema immunitario pazzesco perché viviamo li teniamo sul letto noi anche, tu lo metti sul letto il cane? Io ne ho tre, amore. Anche noi, guarda, tre ogni tanto teniamo quelli di mia sorella o di qualche amico. Per cui c'è tutto un giro che noi di amici, poi abbiamo tutti amici con i cani, per cui facciamo i weekend in campagna. L'ultima volta eravamo 7 cani. Figurati. Come noi a Capodanno. Noi a Capodanno eravamo 6 persone e 5 cani, ti dico solo questo. Perché... Con l'ansia di tenere la televisione accesa perché sennò il cane sente il rumore dei botti. Chiusi in camera col cane con le mani sulle orecchie per non fare sentire. Però guarda quanto fa il ritorno a casa e vederli vedere come ti accolgono è impagabile. È impagabile veramente. Io penso che io sto facendo una commedia con Pino Quartullo, colgo l'occasione, che ho trovato geniale. Io non avevo mai fatto teatro in vita mia, l'ho trovata strepitosa perché è una commedia francese originale, ma parla proprio di questo, del rapporto col cane, è la storia di un cane che abbandona i suoi padroni in realtà, no? E quindi i padroni vanno in ansia e cercano di capire che cosa hanno sbagliato con questo cane, ma è scritta veramente bene, dove tutte queste cose, il fatto di ritornare a casa per la porta magari sei stanco, c'hai le emicranie, c'è una giornata pessima, faticosa, è andato tutto male, poi vedi questi che io quando entro in casa inizio a ridere, cioè, proprio ti cambia la giornata. Poi io guardo Asia, che è quella più grande, che è questo incrociata con Labrador, che praticamente lei ride. Lei ti viene incontro e ride quando si dice che tu torni a casa. Lei ride e io mi sciolgo. Senti Silvana, ma c'è qualcosa che gli animali ti hanno insegnato nell'arco della tua vita? Ma tantissimo. Innanzitutto l'adattarsi alle cose e capire che l'amore va veramente oltre ogni cosa. Se tu pensi un cane, tu lo puoi far vivere veramente con te in una casa di 5 metri quadri come in una casa di 500, il cane deve stare con te e tu puoi essere bella, brutta, senza trucco, con le ciabatte, con i bigodini, il cane ti adora. È vero. Vedi, parlavamo di accettazione o amore incondizionato io e Rosita qualche giorno fa, il cane è un grande maestro di questo. Esattamente, veramente ti insegnano che l'amore va sopra ogni cosa. E poi l'amore fra di loro, come si amano loro tre, parlo dei miei in questo caso, proprio li vedi che hanno delle manifestazioni d'amore che noi umani credo non possiamo dare. sinceramente. Pensa che io da quando conosco Angelo, che mi ha insegnato, mi insegna un po' il linguaggio dei cani, sì. Dopo un po' di mesi gli ho detto: Angelo, un incubo, perché quando passeggio per strada e vedo le persone col proprio cane al guinzaglio, vedo l'espressione del cane e capisco immediatamente che vita fa. Certo. Guarda certo. Che imbarazzante. Sì, sì, è vero, è verissimo, verissimo. Verissimo. E poi, vabbè, poi ti suscitano questo istinto di protezione pazzesco, perché io spero di non vedere mai nessuno davanti a me che maltratta un cane. Un cane. Io gli vado addosso. Lo so. Cioè, dico, mi è scappato l'acceleratore, scusate. Guarda, ma guarda, mi sembri molto me, perché solitamente Angelo mi dice: aspetta un attimo, vediamo, che cerchiamo di capire, invece partirei. No, io vedo uno che maltratta lì, lo sgozzo. Cioè, senti, ma allora parliamo, voglio farti una domanda, io ho qui l'occasione di avere una persona dentro al mondo della moda. Allora io in questo momento, cioè, sarà che ho un'ipersensibilità, non lo so, però io mi vergogno per loro quando vedo ancora oggi nel 2016 oramai queste ragazze con le pellicce addosso. Poi giovani. Scusami se ti dico sta roba in modo così forte. Forte. Allora, a noi, grazie a Dio, non ci riguarda la cosa, perché non usiamo peli veri, credo, da sempre. No, forse tantissimi anni fa mio zio aveva fatto una serie di pellicce di pelo vero. Adesso usiamo solo e unicamente peli ecologici. Abbiamo tolto le piume d'oca dai piumini, mettiamo soltanto le piume finte. Poi soprattutto io sono, diciamo, della famiglia, sono la più sensibile in questa cosa, per cui rompo anche le scatole. Certo. Contento, perché certe volte mio zio mi dice: basta con questa storia della perché io gli dico: zio, non possiamo fare questo, perché poi fuori dalla filata vengono, si vestono da coniglio, con i sanguinati, è un macello, andiamo sui giornali. Per cui poi lui adesso mi ascolta, ovviamente, poi è diventato anche lui, è animalista anche lui a modo suo, non forse così esagerato come me, però lui ha i suoi gatti, li adora, i suoi cani abroni, no, anche lui adora gli animali. Quindi se uno e va... Dico, non useremmo mai peli veri. Ecco, se uno quindi va da Armani, non trova peli veri, non trova pellicce e non trova piume d'oca nei piumini. Non dovrebbe trovare piume d'oca, tranne in alcune cose, forse le ultime che stanno consegnando in questi giorni prima di questi ultimi 6 mesi nel quale abbiamo inserito questa storia delle piume finte, forse qualcosa la trova ancora, ma diciamo fra 6 mesi non troverà la tendenza. Fra 6 mesi non troverà più niente. A me sapere che Armani cioè è già così, guarda, mi allarghi il cuore come non so che cosa. Mi piacerebbe tanto che tanti seguissero, sì, che altri stilisti si rendano conto. Ma io penso, sai, che ci arriverà. Sì, piano piano c'è un'apertura in questo senso sicuramente. Poi io dicevo prima, Angelo, poi per carità ognuno è libero di scegliere. La cosa che vorrei è che ci sia consapevolezza, no? Quando si indossa qualcosa, quando si decide di mangiare qualcosa, ci sia consapevolezza. Poi ognuno decide, perché tanto, Silvano, ognuno di noi deve fare i conti con la propria coscienza poi alla fine. Invece la maggior parte della gente si tappa gli occhi, il naso e le orecchie, indossa una pelliccia, mangia il foie gras. Sì, tanto è una goccia nel mare, non è che se mi metto io la pelliccia di colpo, cosa vuol dire? Se la pensiamo così non andremo mai da nessuna parte. No, infatti. Senti, guarda, mi ha fatto un sacco piacere fare questa chiacchierata in radio, vorrei organizzare un incontro anche fra di noi. Sicuramente. Intanto buon lavoro, ci vediamo magari al parco con i vari cani. Assolutamente. Grazie, Silvana Armani. Sei stata deliziosa, un abbraccio, grande stima a tutta la famiglia. Squadra Quattro Zampe, andate a cercarla su Google. Grazie mille. Grazie, Silvana. Ciao. Ciao, Angelo Rosita. Ciao, ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io e Rosita abbiamo un sacco di cose di cui parlare, siamo indecisi su che cosa dirvi prima. Sì, perché noi che ci nuotiamo, sguazziamo in mezzo a tutte le domande, gli articoli che riguardano i cani, ma tutti gli animali di tutta questa meravigliosa terra, allora veniamo colpiti da diverse cose. Allora, una notizia che ci ha colpito molto riguarda l'Italia, riguarda in modo specifico Perugia, perché Perugia ha deciso di dare assistenza veterinaria gratuita per chi adotta un cane anziano dal canile. Eh sì, il cane deve avere più di 6 anni, ricordiamolo, ma soprattutto bisogna ringraziare l'EMPA, perché in realtà potrà usufruire di assistenza di cura medico-veterinaria gratuitamente, sì, per via del fatto che ci sono i veterinari dell'EMPA che lo fanno. Certo. No? Adotta un nonno si chiama questo progetto, che è stato lanciato l'anno scorso e che Perugia è stata felicissima di abbracciare immediatamente, perché spesso, sai, uno va a adottare i cani in canile, ma a volte uno non ci fa caso. È vero che i cuccioli sono i più appetibili, perché poi uno dice lo levo con le mie abitudini e tutto quanto, ma in realtà i cani anziani sono di una dolcezza disarmante. Non soltanto, io ti dirò di più, Rosita, quando uno adotta un cucciolo non sa bene, soprattutto quando è un meticcio, che tipo di carattere aveva. Da grande, noi sappiamo che i cani hanno delle tendenze comportamentali, no? Certo. Quando il cane invece è anziano, è più di 6 anni, i volontari di un canile sanno già raccontarti dire. Meglio che cosa è ovvio che poi il carattere del cane può cambiare a casa, però le probabilità di questo cambiamento sono inferiori rispetto ad un cucciolo, che peraltro devi assisterlo, stargli dietro molto di più, devi dedicargli molto più tempo, fare la pipì in casa, via dicendo. Il cane anziano queste problematiche non ce le ha. Quindi, insomma, è un modo per spingere qualcosa che in realtà è già conveniente. No, ma difatti è un'iniziativa... Tirate fuori i cani anziani, esatto, dai canili. Esatto, difatti è un'iniziativa fantastica che noi speriamo che venga abbracciata da tutte le altre regioni d'Italia, d'Europa e del mondo. Fra l'altro, un po' di giorni fa, non mi ricordo se ero con te, che parlavamo di questo signore anziano che gli era morto il suo cagnolino e diceva che, di botto la sua vita era vuota, era triste, sembrava anche... proprio giù, proprio molto giù di morale. Diceva io vorrei adottare un altro cane, dice, però poi il mio problema è che io non ho 50 anni di vita ancora davanti, perché c'aveva più di 75 anni. Allora questo mio amico o mia amica gli ha detto, dice, guarda, ma vai in canile, dice, prendi un cane più o meno della tua età, dice, così vi accompagnate, avete le stesse esigenze, che è vero, no? Perché a volte gli anziani hanno questa reticenza, perché magari un cucciolo dicono, e poi dopo se non manco io chi si occuperà di questo cucciolo? Ma non soltanto, è esuberante. Esatto. Alle persone anziane piace camminare lentamente, anche ai cani anziani piace camminare lentamente. Esattamente. Io vedo a volte delle persone spazientite con il cane anziano al guinzaglio, mentre devi dedicargli tempo, non strada, non chilometri, no? E quindi grazie a Perugia grazie e all'EMPA. Grazie a Perugia, c'è la consigliera Angela Leonardi che ha presentato il progetto, è stato approvato. Poi c'è anche, non so se tu vuoi leggere, però c'è anche una lettera aperta di un cane anziano. Vuoi che la legga? Sì, leggila. La leggo? Ti è mai capitato di entrare in un canile? Attraverso il cancello e vieni investito da tanti abbai, tutti diversi. Tutti che reclamano attenzione, e poi gli occhi, quegli occhi che chiedono di incrociare il loro sguardo con il tuo. Alcuni saltano, pieni di voglia di fare, perché la vita lì non li ha ancora piegati. Il box è solo una casa di passaggio, che a breve si trasformerà solo in un lontano ricordo. Ora prova a chiudere gli occhi, a tappare le orecchie e aprire il cuore, perché noi siamo esseri silenziosi, creature ormai convinte che la nostra vita finirà qui, in questo box, che è l'unica realtà che conosciamo da tanti, troppi anni, non lasciarci morire qui. È vero, il nostro cuore non è più quello di un tempo, ma batte ancora e vuole battere per te, che vai oltre le apparenze, che hai deciso di darci una seconda vita, che hai capito che, anche se per poco, noi saremo in grado di cambiare la tua. No, vabbè, io mi metto a piangere adesso. Purtroppo da questa notizia meravigliosa passiamo a un'altra, in realtà bella notizia, che però riguarda una barbarie fatta alle oche, alle anatre. Ah, sì. Dopo la denuncia di essere animali, supermercati PAM hanno tolto il foie gras dagli scaffali. Oh, essere animali è sul pezzo, eh. Sì, io voglio intervistare fantastico. Qualcuno di essere animali, se siete in linea, se ci ascoltate. Ma no, li cerco io, li chiamiamo. Sono veramente sul pezzo. Allora, grazie a Dio, la campagna Via dagli scaffali contro la vendita di foie gras ha riscosso un primo successo. La catena di supermercati PAM Panorama ha aderito all'iniziativa. Evviva Dio! Evviva Dio, perché il foie gras, ricordiamo, persone civili, cioè viene preso da qualcuno come qualcosa che ti nobilita l'animo. Sì, invece esatto. Sei un... Cioè, testa devi... di... No. Sì, esatto. Allora, queste anatre vengono ingozzate forzatamente. Allora, se una persona ha del sale in zucca, non si vanta di questo. Si vergogna se va a mangiarsi il foie gras. Il foie gras, che queste cose... Fra l'altro vengono ingozzate per pochissimi mesi. È qualcosa di veramente provinciale. Cioè fare nobiltà, eleganza perché ti mangi il foie gras fa veramente... Non so come definire schifo. Questa roba qua. Lo sì, però io, sai, tanto c'è già un gente, po' di querele, ne accumulo non altre. Fa, non fa il collegamento. E alcuni di loro, come sappiamo, si chiedono anche, ma queste oche soffriranno davvero? Si soffrono, hanno un cervello che consente loro di soffrire. Sanno che cosa le aspetta. aspetta prima che vengano ingozzate, e stanno male perché vengono ingozzate. Quando tu ti vai a mangiare il foie gras al ristorante oppure a comprarlo al supermercato, perché qua diciamo ci sono anche dei supermercati, Esselunga, Conad, Carrefour, Bennett, Auchan e Pam, Pam adesso non più, ma addirittura Italy, che dovrebbe vendere, cioè Italy, il mangiare, no? italiano, che si vanta di vendere il mangiare italiano. Italy, il mangiare italiano non è il foie gras, e questa cosa qui è piuttosto vergognosa, almeno questa è la mia opinione. Sono pienamente d'accordo, abbraccio totalmente questa opinione di Vaira, anche perché c'è una petizione. Io vorrei dire una cosa: tutte le persone, per esempio, che indossano le pellicce, che mangiano il foie gras, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io vorrei che ci fosse consapevolezza delle persone che sappiano che quello che hanno nel piatto, che quello che indossano, che percorso ha. Poi decidi. Sì, se infatti sei così distaccato dalla situazione da portarlo, vedi alcuni conduttori radiofonici che dicono un sacco di cazzate ai microfoni, non dico quello che ho sentito ieri perché sennò adesso la testa più che girarmi divento l'esorcicio io stamattina. Allora, invece di farli spiritosi, la caccia, i cacciatori sono persone che amano gli animali. Tanta gente cerca consenso attraverso profitto, perché il profitto, perché fa figo, perché ti dà notorietà, no? Anche essere molto beceri dà molta notorietà, ahimè. Oggi quindi, sì. Sappiamo, esatto, che la popolarità sì, si guadagna anche con questi mezzucci. Comunque, allora, no, dico poi ognuno è libero di scegliere e la vita, ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. Però bisogna almeno, chiedo, consapevolezza in quello che fate, in quello che indossate, in quello che mangiate. Dovete prenderne coscienza. Allora, siamo d'accordo che uno deve essere libero di fare quello che vuole, però la coscienza ti deve dire che queste cose non sono cagate. Scusa, sì, sono invece cose di cui ti devi rendere conto. Comunque, tornando invece alla campagna di Essere Animali, hashtag via dagli scaffali, la campagna che Essere Animali ha lanciato, ha sortito già un buon effetto, perché i supermercati Pam Panorama hanno deciso di togliere il foie gras dai loro scaffali. Parliamo di 153 punti vendita. Complimenti Pam. Allora, in questo momento Pam è un supermercato che deve essere premiato a questo punto di vista. Se siete indecisi, no? Dove vado? Vado al tal supermercato piuttosto che all'altro, ma c'è anche il Pam. Ecco, andate da Pam perché ha fatto qualcosa di buono per gli animali. C'è una petizione lanciata da appunto Essere Animali, che si trova su change.org. Comunque, insomma, basta farsi un giretto su internet. Ha già raccolto 60.000 firme. Fantastico. Allora, adesso passiamo a una notizia meravigliosa, commovente, della zampa.it. Un senza tetto rischiava di morire. Il mio cane mi ha salvato per la seconda volta. Questo signore Buddy, che si trova a Washington, è un clochard in realtà. A febbraio del 2013 aveva avuto un malore nel campo dove lui trascorreva la notte, ovviamente. Sì. È interessante questa cosa. Allora, lui che cosa ha fatto? Ha scritto su un foglietto, sì, aiuto, ho bisogno di un dottore, perché lui era totalmente impossibilizzato. Non poteva muoversi. Se non mi viene il verbo, impossibilizzato. Impossibilitato. Impossibilitato, madonna ragazzi. Arrivederci, sì, mi fanno ok dalla regia, come dire, sei sul pezzo Rosita. Sono molto consapevole io di questa mattinata. No, se vuoi mandarci uno dei tuoi cani a fare conduzione, come ha fatto no, questo? No, con un biglietto a chiedere aiuto, la mia mamma è sfumata, sta sfumando. Praticamente il cagnolino è corso per strada con questo biglietto in bocca, attirando l'attenzione di una signora che stava passeggiando appunto in quelle parti. E il cagnolino poi l'ha condotto dal crociato, praticamente l'ha salvato la vita per due volte. Questa è stata la prima. La seconda? La seconda stava per bruciare vivo. Cosa fai? Cosa vedete? No. Sarò sempre sul pezzo? Perché la prima la leggo io, la seconda leggi tu. Ah, scusa, devo essere io, ok. No, siccome ti piace raccontare queste storie. Che noia, che barba, che noia. Vabbè, ragazzi, me ne vado così. Che barba, che noia. Adesso me la metto come sveglia la mattina, soprattutto le mattine che dobbiamo venire qui a fare la trasmissione, così Angelo si prepara, entra nel mood. Allora, no, praticamente questo clochard non è andato a trovare il suo cane, che pare sia ospitato adesso in un rifugio, che è la cosa, a me non è che piaccia, no, infatti, più di tanto, devo dire. Non so, però ci saranno dei motivi, probabilmente lui non riusciva neanche a occuparsene, non lo so. Fatto sta che al rifugio non è andato a trovare quotidianamente, come fa tutti i giorni, no, appunto, con il suo cane, e lo staff del rifugio si è allarmato, quindi l'hanno cercato prima negli ospedali locali, non l'hanno trovato, non gli sembrava di averlo visto, e quindi hanno lanciato l'allarme, e grazie a questo sono riusciti a salvare appunto questa persona che era rimasta incastrata E quindi... una medaglia a questo cane, perché veramente sì. Insomma, bene ragazzi, allora vi volevo ricordare ancora la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it. potete recuperare anche tutte le puntate da quando è cominciata la trasmissione sul sito di Radio 24, radio24.it. c'è l'elenco delle puntate, le potete riascoltare, scaricare sul computer, farle ascoltare agli amici e via dicendo. Sì, se andate sui podcast dove ha il titolo o programmi, chiedimi se sono felice, il mondo alla prospettiva del cane, li trovate tutti. Io direi di fare dei meeting dove se li ascoltano tutti uno dopo l'altro. E detto questo, che dire, non lasciate queste domeniche meravigliose in compagnia di Radio 24, perché a proposito ci sono dei programmi interessanti questa nuova domenica, quest'altra domenica di Radio 24 con La Tella, Pino Insegno. Io un giorno voglio fare la doppiatrice, comunque. Sì, allora chiediamo a Pino Insegno se ti fa da scuola da insegnante. Ma devo fare io da scuola lui? Ah sì, dice Pino Insegno, ti raccomando, io evita se puoi. Esatto, no, sto scherzando, ragazzi, grazie a tutti. A tutti quanti, ci vediamo domenica prossima. Ciao.